Radio 24. Libera la voglia di fare. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Che domenica bestiale, la domenica con te, ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore, com'è bella la natura e com'è bello il tuo cuore. E buona domenica bestiale da Nicoletta, la vostra salutare ossessione quotidiana. Ormai lo sapete, stiamo insieme 7 giorni su 7 alla domenica con la bufala in tavola. Un programma in cui noi andiamo a caccia di fake news che riguardano l'alimentazione. Anche voi naturalmente siete invitati a collaborare, a darci una mano, e quindi se ci sono delle fake news che avete intercettato, a cui avete creduto, che al contrario siete riusciti a smascherare, scrivetemi, amici, la bufala in tavola @radio24.it. Intanto, come sta andando la vostra domenica? Che cosa state facendo? Già, una buona idea l'avete avuta perché mi siete venuti a trovare, ma programmini, state preparando il pranzo della domenica, lo salterete, andrete in palestra o magari mangerete con gli amici. Di solito la domenica ormai ci siamo un po' americanizzati, si fa il brunch. Mi raccomando, riposatevi un po', ricaricatevi, perché la domenica è una, e allora cerchiamo un po' di recuperare un po' tutte le energie per affrontare poi la settimana in piena forma. Lo sapete, che io lavoro perché ho un obiettivo salute tutti i giorni dal lunedì al sabato, ma anche un po' un'ossessione, che è quella di fare rete con voi e cercare di raccogliere tutte le informazioni utili per farci stare bene, solo quelle che servono, al di là delle mode, dei sentito dire, delle leggende metropolitane. Basta poco, però noi dobbiamo mettere e fare la nostra parte. Ci aiuta oggi il nostro ospite della domenica, che faccio accomodare a tavola, ma gli diamo naturalmente il posto di capotavola perché lui, il nostro uomo, il nostro esperto, il nostro super ospite, il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, autore di 2 libri che hanno avuto grande successo, Super Salute e La Dieta Super Salute. Buona domenica! Buona domenica a tutti voi, buona domenica Nicoletta. Allora, dottor Gualerzi, intanto si accomodi, portate anche voi qualche amico, sedetevi, accomodatevi alla tavola della bufala in tavola. Dottor Gualerzi, i soldi fanno girare l'economia e noi oggi parliamo di qualcosa che vorremmo far girare, che fa girare anche un po' la nostra salute. Parlo di un metabolismo attivo promuove la salute. Allora oggi cercheremo di convincere il nostro metabolismo a spendere, a consumare di più, perché dal punto di vista della salute possiamo dire che, e queste sono delle contaminazioni che mi ha regalato la mia amica Deborah Rosciani dopo anni di Cuore Denari, possiamo dire che finché c'è spesa c'è speranza, o meglio, finché c'è spesa c'è vita. Quindi ci auguriamo che il nostro metabolismo spenda bene e a lungo. Come facciamo? Beh, innanzitutto quello di andare a fare la spesa è un buon inizio, anche delle volte alla domenica quando si ha più tempo, visto che oggi molti supermercati sono aperti, ci si rilassa a fare la spesa scegliendo senza l'impeto della foga, del gusto di scegliere quello che abbiamo visto in modo subliminale dalla pubblicità, quindi rallentando un attimo, facendo la spesa, attaccando il cervello e scegliendo gli alimenti di giusta qualità e giusti per il nostro metabolismo. Noi oggi vi daremo sicuramente una lista, un suggerimento di alimenti, di prodotti di stagione, prodotti della tradizione italiana da tenere in dispensa, quelli che non hanno macchia, no. Su cui non ci sono bufale. Dottor Gualerzi, sappiamo che è importante quello che portiamo a tavola, chissà che cosa staranno mangiando i nostri amici alla domenica. Di solito si fanno dei piatti molto buoni che richiedono magari anche più tempo nella preparazione. Ma chiudo rapidamente la parentesi perché prima che ci sediamo noi a tavola ci passerà almeno più di un'ora. Allora, è importante quello che mangiamo, la qualità di quello che mangiamo, la stagionalità, la quantità, ma è anche importante quando noi assumiamo un cibo. Iniziamo da qui, dottor Gualerzi, e poi smascheriamo le leggende metropolitane sul metabolismo. Assolutamente, è molto importante, soprattutto se parliamo di metabolismo, perché prendere il cibo al momento giusto, oltre che di qualità giusta, determina il nostro metabolismo. Sappiamo ad esempio che mangiare molto o in modo appropriato alla mattina è un ottimo modo per avere un ottimo starter sul metabolismo. Al contrario, quando non ci alimentiamo affatto alla mattina e anche se ci sentiamo sazi ce la svanghiamo con un banale caffè, sappiamo che il metabolismo va in difesa perché inizia a difendersi pensando che quel giorno non ci saranno abbastanza calorie da spendere, quindi tutto il giorno viene passato in difesa. Molti blocchi del metabolismo sono proprio dati da come iniziamo la giornata, quindi se iniziamo male mangiando poco o cibi che non hanno il giusto apporto energetico e calorico, anche il metabolismo si accontenta di fare il minimo indispensabile. E cioè non ha niente da fare, dice, allora cosa sto ad agitarmi per nulla, eh? Tanto rumore per nulla. Dottor Gualerzi, mi dà una definizione chiara di metabolismo? Perché noi lo vediamo come qualcosa, no? Brucia i grassi, no? Forse le calorie, no? Forse mi dà l'energia, forse si rallenta in grasso. Che cos'è? Il metabolismo basale è ciò che il nostro organismo consuma e spende in energia mantenendo semplicemente le, diciamo, funzioni vitali, quindi l'insieme di tutti i processi metabolici necessari a mantenerci in vita se stiamo seduti tutto il giorno. Sì. E questo è molto più alto rispetto a quanto noi immaginiamo, mentre per metabolismo generale si intende la somma di tutti i, processi metabolici necessari per farci fare le normali attività che quotidianamente facciamo, quindi dipende molto anche da che tipo di azione facciamo. Quindi se andiamo a correre il metabolismo sarà più alto, se stiamo seduti sarà più basso. Dottor Gualerzi, sul metabolismo ne sono fiorite di tutte e di più, tante leggende metropolitane su cui naturalmente faremo chiarezza, ma anche tanti consigli col bollino della scienza per risvegliare il nostro metabolismo o perlomeno metterlo nelle condizioni di lavorare per noi. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a fare una piccola pausa, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme per parlare di metabolismo. Sveglia con noi. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La bufala in tavola. Stringetevi un po', si stanno aggiungendo degli amici alla bufala in tavola. Aggiungi un po' sta tavola, noi ne vogliamo aggiungere sempre, sempre, sempre di più. Capotavola di oggi, il nostro esperto della domenica, il dottor Massimo Gualerzi. Stiamo parlando di metabolismo, ne abbiamo sentiti di tutti i colori, ma soprattutto oggi il dottor Gualerzi ci ha dato un'indicazione molto chiara e semplice. Finalmente sappiamo con chi abbiamo a che fare, che cos'è questo metabolismo. Dottor Gualerzi, si sono aggiunti degli amici, ripetiamo rapidamente, diamo una definizione. Il metabolismo è l'insieme dei processi metabolici che mantengono vitale il nostro organismo in condizioni basali, e questo è il metabolismo basale, mentre il metabolismo generale è quello che, diciamo, è dato dalla somma di tutti i processi metabolici sufficienti e necessari per farci fare le comuni attività di tutto il giorno. Quindi diciamo il metabolismo sarà più alto quando consumeremo di più, quindi saremo più attivi, sarà più basso se siamo più, diciamo, passivi o sedentari. E quindi tutti ne abbiamo uno, ma soprattutto è un argomento molto chiacchierato. Dottor Gualerzi è andato a caccia di bufale per noi, allora tutto quello che si dice di bello e di brutto, di giusto e di vero sul metabolismo. Sì, un po' anche dalla mia esperienza, quando diciamo la prima, diciamo, falso mito è quello che il metabolismo è genetico e non si può cambiare. Non è affatto così. Vero è il fatto che il metabolismo è unico, come ad esempio le impronte digitali cambiano da persona a persona, ma la velocità con cui cambiamo e bruciamo le calorie dipende, come abbiamo detto, dal tipo di attività fisica che facciamo, dalla quantità di massa magra che abbiamo, e quindi può variare tranquillamente da persona a persona e anche all'interno della persona, all'interno della vita. Ecco, all'interno anche della vita. Quindi questo vuol dire che se siete sovrappeso e dite ma noi di famiglia abbiamo il metabolismo lento, dovete trovare un'altra scusa. Assolutamente. Il mito numero due è che gli uomini e le donne hanno lo stesso metabolismo indipendentemente dall'età. Doppiamente falso, gli uomini hanno più massa generale muscolare, magra, rispetto alle donne e anche hanno gli organi più grandi. Quindi il significato che gli uomini anche a riposo bruciano più calorie, per quello che dicevamo prima, perché il metabolismo basale, cioè la quantità di energia di cui hanno bisogno gli uomini per mantenere lo status quo necessario per far andare avanti l'organismo, è più alto, circa di un 10% negli uomini. Quindi è vero che gli uomini hanno metabolismo basale un po' più alto. Ecco, in questo ci battete, ma vabbè. Ma non è vero, no, assolutamente. Dai, 1-0 però, metabolismo un pochino più alto, fatelo però fruttare un po'. Dottor Gualerzi, andiamo alla prossima bufala. Un'altra bufala che in parte contiene anche una verità è che i cibi piccanti aumentano il metabolismo, quindi la gente magari continua a riempire di cibi piccanti tutti diciamo le portate per aumentare il metabolismo. Vero è che il cibo piccante aiuta il metabolismo in quanto molto spesso va a sostituire il sale che invece blocca il metabolismo, quindi utilizzare cibi piccanti come alternativa al sale aiuta, comunque le spezie piccanti aiuta ad eliminare il sale, quindi contribuisce a migliorare il metabolismo, ma non è vero che mangiando più piccante il metabolismo si alza. Ok, quindi non smettiamola di rendere piccante tutto solo perché, ad esempio, bruciamo di più o dimagriamo di più. Dottor Gualerzi, che cosa invece rallenta il nostro metabolismo? Ma purtroppo rallenta il metabolismo le diete senza senso, comunque togliere cibi in modo inconsapevole o senza raziocinio nella nostra alimentazione. Tenete conto che il metabolismo è un po' una situazione a doppia mandata, quindi aumenta se ci muoviamo di più, ma aumenta anche se introduciamo più benzina, quindi quando invece la togliamo e quindi mangiamo di meno e ci limitiamo, il metabolismo tende ad abbassarsi. Ecco perché una buona modalità per aumentare il metabolismo e quindi anche per dimagrire non è quello di togliere cibo, o meglio, va bene togliere il cibo tossico e quello, diciamo, quello che chiamiamo junk food, ma bisogna mantenere inalterate le calorie per avere un consumo energetico e eventualmente iniziare a muoversi di più, a correre o a fare sport. Ecco, a correre, a fare sport, insomma ad avere quello sprint necessario, qualcuno proprio lo trova la domenica. Quanto è stato bravo il nostro amico, il dottor Gualerzi, che è qui a capotavola, la bufala in tavola, a passarmi il piatto. Perché vogliamo proprio parlare di corsa, noi vogliamo un metabolismo che sia veloce, sprintoso, e molte persone proprio lo sprint lo risvegliano la domenica, diventano dei runner, vanno a correre, nell'unico giorno che hanno a disposizione per occuparsi un po' di sé. Quindi non parliamo naturalmente di chi fa corsa a livello professionale o molto, insomma, quegli sportivi super amatoriali, ma parliamo un po' del runner della domenica e che magari quando ce la fa inserisce la corsetta con gli amici durante la settimana. Anche sul tipo di dieta che deve seguire questo sportivo ci sono tante indicazioni, a volte sono utili, a volte invece non hanno alcuna validità e quindi sono solamente delle abitudini, dei comportamenti che vengono suggeriti da persone che magari non sono esperte, ma che se protratti nel tempo possono in qualche modo, non dico danneggiarci, ma impedirci di rendere al massimo. Allora cerchiamo di vederci chiaro, abbiamo naturalmente invitato un'altra ospite, noi siamo ormai al secondo piatto, abbiamo mangiato l'antipasto a base di verdure fresche, croccanti, abbiamo fatto un primo piatto, abbiamo messo i cereali anche integrali, ma ci siamo un po' allargati. È arrivato tra il primo e il secondo la nostra prossima ospite, la dottoressa Michela Carola Speciani, medico chirurgo esperto in nutrizione applicata. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta, buona domenica e buongiorno a tutti. Arrivata da noi di un po' di corsa? Anche lei? Sì, sempre di corsa. Sempre noi. Di corsa, sempre di corsa, ma dottoressa... attivare il metabolismo. Vede? Ecco, tutto torna. Dottoressa Speciani, che cosa può mettere in tavola lo sportivo, il runner della domenica? Parliamo di uno sportivo, non direi neanche tanto amatoriale, ma di chi proprio approfitta della domenica per dedicarsi un po' a un'attività sportiva. Ci sono delle attenzioni, delle avvertenze, delle precauzioni che deve adottare per far rendere al massimo questo sforzo, perché a correre si fa fatica. Assolutamente. Prima indicazione, ricordatevi che i cereali integrali sono vostri amici. Spesso nello sportivo questo concetto non arriva. Lo sportivo è in genere abituato a considerare il carboidrato raffinato una fonte di energia rapida. Ricordatevi che utilizzare carboidrati integrali e in generale fonti di carboidrati a basso impatto glicemico è estremamente funzionale al mantenimento dei vostri livelli energetici anche durante l'attività fisica, quindi anche durante la corsa. E inoltre fornisce quel po' di proteine in più che allo sportivo è sempre utile. Certo. Teniamo presente in questo senso che l'italiano medio tende a mangiare un po' meno proteine rispetto a quelle che sono utili e importanti, in particolare quando si pratica uno sport come la corsa. Ad esempio, il fatto di mettere un po' di noci, le mandorle che adesso stanno andando molto. Teniamo presente sulle mandorle che le mandorle sono ricchissime in acidi grassi poliinsaturi, ma sono più ricchi di omega 6 rispetto che di omega 3, per cui se vogliamo raggiungerci a un rapporto ottimale, avvicinarci al rapporto ottimale tra omega 3 e omega 6, le noci sono estremamente più funzionali, per cui benissimo le mandorle come fonte proteica, vanno benissimo. Anche nell'attività sportiva l'attenzione alla componente infiammatoria e per cui ad esempio al contenuto di omega 3 di quello che mangiamo può essere estremamente utile, per cui il suggerimento è di concentrarsi su fonti proteiche come il pesce, i semi oleosi vanno benissimo, le noci, abbiamo fatto l'esempio, anche le noci brasiliane vanno benissimo, piuttosto che anche le uova possono essere un supporto in questo senso. Dottoressa Speciani, dottor Gualerzi, intanto, lei è d'accordo? Molto d'accordo, giustamente. Perché abbiamo bisogno anche di una comunità scientifica che ci faccia capire verso quale linea si sta dirigendo. Perché a volte ci confondete un po'. Sì, carboidrati, no i carboidrati, più proteine, meno proteine, quelle animali, no quelle vegetali. Dottoressa Speciani, anche sull'alimentazione di chi pratica sport, dello sportivo, ci sono delle indicazioni che a volte non sappiamo come leggere, come interpretare. Non vorrei etichettarle come delle fake news, ma forse ci fanno sorgere dei dubbi. Ad esempio, energy drink, che sono spesso ritenuti indispensabili, vanno sempre utilizzati? Stiamo parlando sempre di uno sportivo un po' meno che amatoriale. Assolutamente gli energy drink andrebbero evitati, soprattutto in questa categoria di persone che pratica un'attività amatoriale della domenica, non amatoriale. Comunque ecco, non è che bevendo l'energy drink diventiamo sportivi, perché a volte abbiamo bisogno di fare delle cose per farci dare delle etichette, cioè non è l'energy drink che rende di noi da pantofolaio a sportivo, quindi possiamo anche direi proprio di no. Ecco, dottoressa, prima di salutarla, ci sono delle persone che fanno un po' di sport e poi reintegrano i sali minerali persi dopo l'esercizio. Stiamo sempre parlando di persone che praticano attività fisica ma non si ammazzano di fatica. È davvero necessario ricorrere a questi drink oppure possiamo utilizzare anche altro? Ad esempio l'utilizzo di alimenti come la banana, delle albicocche secche rispondono perfettamente alle esigenze di reintegro, ad esempio del potassio, che è il minerale che può essere utile reintegrare nel momento in cui si suda molto, senza andare per forza a recuperarci un quantitativo di zucchero che il drink per sportivi che si usa in genere potrebbe darci. Quindi noi in redazione abbiamo a Radio 24 abbiamo il momento banana e quindi non siamo sportivi, no, qualcuno sì, ma insomma medi, sportivi medi, il momento banana che a noi tira su anche nel pomeriggio. Dottoressa Speciani, io la ringrazio per essere stata con noi e la invitiamo per una pausa, un momento banana anche a Radio 24 per volentieri un'altra bella intervista. Buona domenica. Altrettanto. Noi ci fermiamo, facciamo una pausa, dottor Gualerzi. Lei è stanco? Sta mangiando bene? Io sto mangiando, sono rilassato, quindi non sono stanco. Ecco, ma lei lo sa che noi parleremo ancora anche delle hit parade, delle diete, delle notizie che abbiamo raccolto, che sono le più vivaci sul web, perché cerchiamo anche lì. Le abbiamo setacciate e le passeremo con lei in rassegna. Ma c'è anche tra poco la nostra rubrica Senti come mangio, per ottenere il meglio da quello che portiamo a tavola. Insomma, piatto ricco, mici ficco, restate con noi, state lì. La bufala in tavola. Ma eccoci di nuovo insieme, sono tornata, forse siete arrivati voi, comunque c'è posto alla bufala in tavola, un programma tutto dedicato all'alimentazione e a smascherare le bufale che circolano sul mondo delle diete e dintorni. In compagnia oggi con noi il dottor Massimo Gualerzi, ne abbiamo dette di cotte e di crude, abbiamo parlato anche della dieta del runner della domenica, quello che corre con un po' di pancetta, ma adesso anche i runner si saranno messi a tavola, finalmente è domenica, ci gustiamo le lasagne della mamma, il dolce della domenica, insomma, dottor Gualerzi, la domenica è una festa, il cibo è festa. Tra l'altro, anche le ultime ricerche ci dicono che fa bene interrompere anche la dieta, sgarrare un po'. Dottor Gualerzi, la domenica e direi non solo. Assolutamente sì, le due tendenze sono quelle di interrompere un'alimentazione normale con qualche giorno, ad esempio, di digiuno, oppure interrompere la dieta con qualche giorno di sgarro, che è l'altra faccia della stessa medaglia. Questo perché se il metabolismo non si adagia su un regime alimentare stretto e codificato, acquista, diciamo, più duttilità, più malleabilità, quindi ci segue di più e quindi è quello che vogliamo. Quindi alternare appunto queste fasi contribuisce notevolmente ad avere un metabolismo più brillante, più giovane e più tonico. Proprio per questo, oggi che abbiamo parlato di metabolismo, anche seguire un stile alimentare attento, che non vuol dire necessariamente restrittivo o mortificante, perché si può mangiare bene, anche un'alimentazione che ci fa stare bene, anche gustando quello che mangiamo e senza soffrire la fame, ma interrompere è un po' di ritmo diverso, aiuta il nostro metabolismo a dire, oi, devo lavorare. Assolutamente, se pensate il parallelismo, va lavorà, come dicono a Milano. Appunto, e dicevo, il parallelismo è anche un po' con l'attività fisica. Le attività fisiche che sono più impattanti sul metabolismo non è, ad esempio, la corsa lenta fatta sempre alla stessa intensità, ma alternare il ritmo, quello che viene chiamato interval training o fartlek, no? Dove praticamente alterniamo fasi in cui acceleriamo a fasi in cui rallentiamo, perché proprio questa non costanza di ciò che facciamo genera una capacità del nostro organismo ad essere sempre attivo, sempre sveglio, sempre sul chi va là, e quindi più alto il metabolismo, se parliamo di metabolismo. Invece mi è venuta l'idea di chi mangia normalmente quello che capita, quindi magari in mensa, in azienda, poi il cappuccino, e decide una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, di fare una giornata detox. Va molto di moda. Ormai da qualche anno sappiamo che ci sono delle attrici che lo praticano regolarmente, sembrano anche più belle, ne sottolineano tutti i vantaggi. Ha senso e come si fa? Assolutamente senso, questa cosa può essere fatta attraverso, ad esempio, non un digiuno ferreo, ma concedendosi dei succhi, ad esempio delle bevande a base di verdura, di frutta, di piante officinali, in cui spezziamo la routine della settimana con queste bevande che idratano l'organismo, che danno la giusta quantità di fibre per purificare anche l'intestino, e riducono un po', in questo caso, l'apporto di nutrienti che andrebbero a contribuire al nostro grado di stress ossidativo. Quindi interrompere con dei semi digiuno, comunque liquidi, e la nostra routine, diciamo, fa molto bene per purificare, per ripartire di slancio. In questo caso vale lo stesso concetto che abbiamo detto, perché va proprio a identificarsi in quel meccanismo di mobilità, di duttilità del nostro metabolismo, che seguirà il nostro andamento alimentare. Quindi qualche giorno dove ci priviamo del cibo e facciamo questa cosa aiuta tantissimo per migliorare il metabolismo. Ho capito che il metabolismo va un po' spiazzato. Vero, l'effetto sorpresa, il metabolismo così lo prendiamo in castagna e se un attimo si è appisolato, un po' come bisogna fare con i mariti. Anche con le donne. Anche con le donne in genere, è vero, l'effetto sorpresa funziona anche sulla linea, ragazzi, ma questa è vita. Non scopriamo niente di nuovo. No, però intanto dirlo è bello. Allora, sentavo un po', dottor Gualerzi, sempre per le info che viaggiano sul web, ritorna, è sempre un tormentone. Questa dieta del limone non è ancora morta. Allora, vero e falso? Perché io sono sempre un po' allergica quando le persone mi propongono un alimento come così meraviglioso, che fa bene, ti fa diventare giovani, ti depura, ti toglie la cellulite, ti fa cadere i peli superflui. Non ci credo tanto. Però devo dire che deve avere un appeal particolare il limone, perché è un tormentone che ogni anno si ripropone. Ma va molto bene, infatti nasce da lì, dalle star di Hollywood che hanno bisogno molto spesso in pochi giorni di rimettersi in forma per interpretare parti ed essere fisicamente differenti da quelli che sono nella normale routine o nella quotidianità. Quindi non la chiamerei assolutamente dieta, ma chiamerei più un rimedio. Sì. Quindi un po' va a mettersi nell'ottica che diciamo, quindi che abbiamo appena detto. Quindi se la mettiamo come una pausa rispetto alla routine per detossificare, ecco che una giornata o una dieta o qualche giorno, diciamo, dove ci alimentiamo a base di succo di limone, può avere la ragione di esistere. Se parliamo di dieta, quindi nella mia accezione dieta vuol dire uno stile alimentare, assolutamente no, perché finirebbe per generare una riduzione del metabolismo, essendo il limone povero di sostanze e quindi cioè, ricco di sali minerali, ricco di quelle sostanze che possono essere utili lì per lì, ma non certamente in grado di supportare un metabolismo di una persona normale. Quindi se mangiamo limone andiamo ad abbassare il metabolismo, se lo andiamo a mangiare per molto tempo. Una giornata può essere una giornata detox. Può essere, perché dottor Gualerzi, parliamo sempre della paura di mangiare troppo. Io ho anche la paura che alcune persone mangino poco e si nutrano poco. Questo è un aspetto importantissimo per la salute a tutte le età, e quindi negli adolescenti, ma anche nell'età adulta e anche per i nostri anziani. Bisogna mangiare bene nelle giuste quantità, fornire il nostro organismo di tutto quello che ha bisogno, ma non possiamo fare troppi sconti, perché la salute viene danneggiata nello stesso modo quando ci alimentiamo troppo. Assolutamente, nello stesso modo e anche in per certi versi peggio, perché è una cosa che dico sempre alle ragazzine, che normalmente noi in una certa fase dell'età tendono a sottoporsi a regimi dietetici assolutamente, diciamo, sconsiderati. Cominciano ad avere una cosa che possiamo notare tutti, quindi una cosa che dico anche ai radioascoltatori: le mani, i piedi sempre freddi, avere freddo anche quando non c'è una temperatura tale da avere freddo. E questo perché è un'espressione del nostro metabolismo basale. Quando abbiamo freddo e quando la circolazione non irrora bene il nostro organismo, è frutto del fatto che il metabolismo si sta difendendo, si sta mettendo in difesa, sta calando, proprio perché non gli diamo la giusta carica. Quindi in questo caso anche questa è un'espressione per, diciamo, dover introdurre più elementi, più calorie, più sostanze. Non c'è una scorciatoia. Per perdere peso bisogna mangiare bene, ma muoversi di più. Quindi non riducete le calorie, non limitatevi a tavola oltre misura, ma la strada giusta è quella di muoversi, ecco, di più. E alle ragazzine diciamo che fare queste diete sconsiderate, nutrirsi quindi in modo sbagliato, troppo povero, fa aumentare la cellulite, perché le ragazzine lo fanno perché si vedono la cellulite e non sanno che le hanno anche le vippettone, perché però hanno il Photoshop. Quindi la cellulite noi ce l'abbiamo e ben venga. Però fare queste diete può veramente aumentare, proprio per quel sorta di difetto di nutrimento che c'è tra le cellule, c'è una sorta di comunicazione infiammata. Dottor Gualerzi, io l'ho detta male, ma lei la sa spiegare meglio. L'ha detta benissimo, è proprio così. Stare a dieta sottopone il nostro organismo a uno stress, quindi diete smodate portano stress. Abbiamo sempre detto, lo stress infiamma, e la cellulite, proprio anche come suffisso ite indica un'infiammazione, ecco che la cellulite è un'infiammazione. Quindi ripeto, non ci sono scorciatoie, mangiare cibi sani, ma mangiare, introdurre la giusta quantità di calorie, non troppo basse, e muoversi di più, facendo anche attività a più alta intensità, perché l'ultima cosina che voglio dire è certo, che spesso ci muoviamo, ma non sufficientemente, non in modo sufficientemente intenso. Quindi anche piuttosto di aumentare le ore, i minuti di svolgimento dell'attività fisica dobbiamo lavorare sull'intensità, quindi non correre più a lungo ma correre più intensamente, perché gli allenamenti ad alta intensità contribuiscono a aumentare il metabolismo. E quindi bisogna fare un po' di fatica, dottor Gualerzi. Chi bello vuole apparire un po' deve soffrire. Senti come mangio. Siamo tornati al nostro appuntamento della domenica, una rubrica dentro la rubrica. Senti come mangio, vogliamo raccontarvi tutti i segreti, ce li facciamo raccontare dai nostri esperti per prendere il meglio da quello che portiamo a tavola. In linea con noi oggi il professor Luca Piretta, gastroenterologo, nutrizionista, docente al campus biomedico di Roma. Buongiorno, buona domenica e ben arrivato alla Bufala in tavola. Nicoletta, buongiorno a lei, buona domenica a tutti. Professore, noi oggi parliamo di fibre. Ormai associamo questa parola al benessere, alla salute, insomma abbiamo capito che sono importanti, ma c'è fibra e fibra. Esatto, cioè ormai il termine fibra ha assunto un significato tuttologista, mi passi questo neologismo, cioè che le fibre fanno bene e punto. Ecco, questo è un discorso che invece si è visto non essere esattamente così, perché le fibre sono un mondo di nutrienti, perché si possono definire come nutrienti, che invece sono differenti secondo la tipologia di fibra che andiamo a considerare. Grossolanamente possiamo dividere le fibre in due tipi, fibre solubili e fibre insolubili. Tutte e due le troviamo negli alimenti, ma hanno un'azione sul nostro organismo diverso. Le fibre insolubili sono quelle che troviamo nei cibi integrali, nei cereali integrali, nella crusca, nell'avena, in alcuni semi, e hanno lo scopo, diciamo, di non essendo assorbite, di accelerare il transito intestinale, perché trattengono liquidi, trattengono acqua per effetto osmotico e aiutano a lavorare meglio l'intestino. Soprattutto per le persone stitiche può essere di grande aiuto. Una mano santa. Professore, ci fermiamo. Quindi fibre insolubili, li troviamo nei cibi integrali, accelerano il transito intestinale. Avete raccolto tutte le informazioni. Restate con noi perché è ancora con noi il professor Luca Piretta, il dottor Massimo Gualerzi. Pausa per andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, perché ci sono persone che non sono sempre sedute a tavola la domenica, ma si muovono magari per andare a trovare degli amici. Restate con noi, torniamo subito. La bufala in tavola. Io sono fisico, logico, fisiologico. In questo mondo digitale non trovo un filo logico. Come il poeta ha ragione chi è felice, ma non si dice, così tanto abituato alle macchine. Come potevo non scomodare Fabri Fibra per parlare di fibre insieme al professor Luca Piretti nello spazio che abbiamo chiamato Senti come mangio, per raccogliere tutte le informazioni utili per sfruttare al meglio quello che portiamo a tavola. Professor Piretta. Allora, perfetto, Fabri Fibra lavora per noi. Perfetto, mi è piaciuta tanto questa cosa. E le piace anche Fabri Fibra? Ormai ci stiamo modernizzando anche noi. Sono le mie figlie che mi hanno introdotto a conoscenze di mondi musicali nuovi, ovviamente, no? E poi di fibra, giustamente stiamo parlando, mi pare è perfetto, congeniale questa cosa. Allora, dicevamo delle fibre solubili invece, che sono presenti soprattutto in frutta e verdura, non in tutte, in particolare nei carciofi, nelle melanzane, nell'aglio, nella cipolla, nelle arance, che hanno una funzione diversa, sono fibre solubili, un po' più viscose e che servono a trattenere i nutrienti, per cui hanno il vantaggio che per le persone diabetiche, per le persone in sovrappeso, possono dare un aiuto perché rallentando la velocità di assorbimento degli zuccheri abbassano quello che si chiama l'indice glicemico di alcuni alimenti, quindi alzano meno la glicemia. E riducendo anche l'assorbimento di altri nutrienti tipo il colesterolo possono essere utili per le persone che invece hanno problemi di colesterolo alto nel sangue. Il rovescio della medaglia è che riducendo l'assorbimento anche di alcuni nutrienti nobili come il ferro, il calcio o per esempio negli anziani che invece hanno bisogno di trarre il massimo da quello che mangiano perché magari mangiano poco perché hanno problemi di masticazione o le persone di cui parlavate prima, no? Che hanno problemi soprattutto gli adolescenti che non vogliono ingrassare, che mangiano poco, ecco, le fibre solubili, se consumate in eccesso, possono avere un rovescio della medaglia, che è quella di ridurre ancora di più l'assorbimento di alcuni nutrienti. Quindi è sempre importante conoscere queste cose per sapere poi modulare l'alimentazione corretta, che va personalizzata nel singolo individuo, e non dire le fibre fanno bene o le fibre fanno male. Bisogna valutare, perché le fibre solubili, tra l'altro, hanno una funzione molto importante, che è quella di regolare la salute del nostro microbiota. Per microbiota è un termine molto chic, molto, molto trendy. Ah sì, va molto di moda, ormai parlano tutti del microbiota. Brava, che in realtà è un nome trendy per indicare la flora batterica intestinale, quindi è la stessa cosa. Io lo descrivo un po' come quello straordinario e bel vivaio che vive nel nostro intestino. Esattamente. Ecco, me lo vedo così. Per rendere un po' più l'idea, dico, siccome i batteri sono 10 volte superiori alle nostre cellule, in realtà sono loro che portano a spasso noi, non noi che portiamo a spasso loro, perché sono molti di più, e l'insieme dei loro geni è 60 volte superiore al nostro, quindi dobbiamo rispettarli, perché sono molto importanti per la nostra salute. Quindi l'alimentazione corretta è il primo fattore discriminante nel far crescere un microbiota sano o un microbiota malato. Le fibre solubili aiutano a far crescere un microbiota sano, quindi per quando si dice di mangiare frutta e verdura, anche per questa ragione, perché se un microbiota è sano ci aiuta a difenderci dalle malattie tutte, non solo quelle gastrointestinali, perché stimola in modo corretto il sistema immunitario. Quindi rispetto per le fibre, ma attenzione, perché se ne mangiamo in eccesso, soprattutto le persone che soffrono di colon irritabile, e parliamo del 10-15% della popolazione, quindi non sono bruscolini, come si dice, possono andare incontro a problemi gastrointestinali non indifferenti. Quindi è sempre importante capire se sono fibre solubili o quelle insolubili secondo il nostro bisogno, e gestirne la quantità in modo sano. Ci sono molte persone che mangio tanta frutta perché ho letto che la frutta fa bene. Si sbaglia, perché mangiare tanta frutta, oltre poi a privarci percentualmente degli altri nutrienti, può creare problematiche, per esempio con l'eccesso di fruttosio, che può creare problemi di tipo gastrointestinale, di gonfiori e disturbi intestinali. Professore, mi dà due indicazioni, se vuole anche tre, per quindi portare in tavola le fibre giuste. Lei ci ha ben spiegato le differenze, la fibra non è tutto uguale, nelle quantità e nei tempi giusti, magari con qualche attenzione. Sì, allora si diceva a un certo punto che dovremmo consumare 4-5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Ecco, questo è giusto, però siccome poi il termine porzione è sempre molto soggettivo, perché io conosco persone che per loro la porzione giusta di pasta sono due etti, direi che è un po' esagerato, quindi allora diciamo che per porzione di verdura io intendo un contorno vuol dire che nel piatto ci deve essere la fettina di carne o il filetto di pesce o il pezzo di pollo, e nel piatto, quello che resta del piatto, ci devo mettere il contorno. Quindi la foglia di spinaccio non è un contorno, ecco, deve essere una porzioncina. Foglia, no, diciamo, ecco, un contorno, ecco, di spinaci, quello sì. Certo. Diciamo un contorno. Ecco, che abbia la dignità del contorno. Esatto, un contorno a pranzo, un contorno a cena e due frutti, quindi due porzioni di frutta, che chiaramente per due frutti vuol dire tre albicocche equivalgono a una pesca, certo, più o meno. Quindi diciamo una porzione di frutta, intendo o una mela o una pera. O una pesca, tre albicocche, due kiwi equivalgono a una porzione, quindi due volte al giorno. Possiamo anche farla sotto forma di centrifuga, di frullato, certo, di estratto o di macedonia, però intendiamo una porzione di frutta, questa due volte al giorno, quindi in totale quattro, due di verdura e due di frutta. Questa, diciamo, la persona standard che non ha grosse problematiche di salute, sono quantità sufficienti a fornire il nostro fabbisogno quotidiano adeguato di fibre. Ecco. Grazie professore, noi l'aspettiamo ancora la bufala in tavola, le auguriamo una buona giornata, le promettiamo che metteremo la fibra in tavola nelle giuste, grazie, quantità. Buona giornata. Un saluto a tutti, buona, grazie, grazie. Dottor Gualerzi, noi tra poco andiamo a mangiare, anche noi, perché certo, insomma, la fame arriva. Intanto ci nutra con un paio di consigli che vogliono in qualche modo riassumere tutta questa nostra chiacchierata. Siamo passati dal partiti da lontano, dal nostro metabolismo. Sì, allora i consigli sono quelli di non limitare troppo le calorie, perché stare a diete troppo restrittive e troppo settoriali, quindi le diete iperproteiche, le diete fatte solo di limone, le diete fatte solo di alcuni, possono essere degli stratagemmi, ma non sono sicuramente alla lunga, non pagano sul nostro metabolismo. Quindi una dieta deve essere equilibrata, ma che non vuol dire niente, vuol dire che deve essere ricca di diciamo cereali, abbiamo visto sostanzialmente integrali o comunque vari, che possono essere consumati come chicchi interi per renderli ancora più integrali, ancora più parti di nutrienti, ricchi di omega 3, abbiamo visto omega 6 che contribuiscono anche per gli sportivi a generare quell'energia necessaria, e ricche sostanzialmente di fibra. Dico un'ultima cosa sulle fibre che abbiamo appena sentito: tenete conto che tutti questi batteri che ha citato il professore non solo sono tanti e il metabolismo e i geni di questi batteri supera il nostro, ma anche il metabolismo di questi batteri è importante per il nostro metabolismo. Quindi immaginate che il dispendio energetico che questi batteri fanno o spendono va a contribuire nella genesi del nostro metabolismo. Quindi se questi batteri sono in forma e metabolizzano bene, abbiamo un dispendio energetico diciamo aggiuntivo, che ci farà perdere peso aumentando il nostro metabolismo, ma vanno alimentati e quindi non stare ancora una volta in privazione di cibo. Anche i batteri, vedi, dobbiamo pensare, ragazzi, a nutrire anche i nostri batteri, anche questa dobbiamo fare. Grazie dottor Gualerzi, buona domenica a voi, e noi ci sentiamo domani lunedì a Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno. Intanto, fino a domani a mezzogiorno, vi lascio tranquilli, pensatemi, scrivetemi, state bene.